Capitolo 21. La festa del ringraziamento. Quella festa annuale era sempre celebrata a Plumfield secondo il buon sistema antico e a nulla era permesso di turbarla. Nei giorni precedenti le ragazzine aiutavano Asia e Mamma Jo in dispensa e in cucina, facendo torte e budini, scegliendo frutta, ripulendo piatti e dandosi un grande affare e molta importanza. I ragazzi svolazzavano ai margini della zona proibita, annusando gli odori appetitosi, spiando le misteriose operazioni e ottenendo occasionalmente il permesso di assaggiare qualche ghiottoneria in via di fabbricazione. Quell'anno pareva che si preparasse qualcosa di più del solito, perché le bambine erano affaccendate tanto al piano di sopra che a terreno, mentre i ragazzi lo erano nella scuola e nel capannone. C'era una gran ricerca di vecchi nastri e di fronzoli e si faceva un gran tagliare e impastare carta dorata. E Franz e la signora Jo consumavano una notevole quantità di paglia, cotone grigio, flanella e grosse perle nere. Ned nel laboratorio dava colpi di martello a strane macchine. Demi e Tommy andavano in giro, mormorando a mezza voce, come se imparassero qualcosa a memoria. Ogni tanto dalla stanza di Emil giungeva un fracasso infernale e scoppi di risa dalla stanza dei bambini, dove Rob e Teddy restavano nascosti per ore intere. Ma quello che più teneva perplesso il signor Baer era la sorte della grossa zucca di Rob, che era stata portata in trionfo in cucina e aveva dato luogo alla comparsa di una dozzina di torte dorate, per le quali si era certo consumato almeno un quarto di quel mastodonte. Ma il resto dov'era? Scomparso. E Rob non pareva preoccuparsene, ma si contentava di ridacchiare quando se ne parlava. E diceva a suo padre di aspettare che poi avrebbe visto, perché il bello dello scherzo era la sorpresa da fare a papà Baer, senza lasciar trapelare nulla di quanto stava per accadere. Ed egli, obbediente, chiudeva palpebre, occhi, orecchi e bocca, e cercava di non vedere neppure quello che saltava agli occhi, di non sentire i suoni rivelatori che riempivano l'aria, di non capire nessuno dei misteri perfettamente trasparenti che lo circondavano. Da buon tedesco amava quelle semplici festicciole domestiche e le incoraggiava di tutto cuore, perché rendevano la casa tanto piacevole che i ragazzi non desideravano di andare a divertirsi altrove. Quando finalmente giunse il gran giorno, i ragazzi andarono a fare una lunga passeggiata per acquistare un bell'appetito, quasi non ne avessero avuto abbastanza. Le ragazze rimasero a casa per aiutare ad apparecchiare e a dare l'ultimo tocco a varie faccende che le tenevano in agitazione. L'accesso all'aula scolastica, chiusa fin dalla sera prima, era stato interdetto al signor Baer, sotto pena di essere battuto da Teddy, che montava la guardia alla porta come un piccolo drago, sebbene morisse dalla voglia di spifferare tutto. E solo l'eroica abnegazione del padre, che non volle ascoltarlo, gli impedì di tradire il gran segreto. «È tutto pronto! E che meraviglia!» gridò Nan, venendo finalmente fuori con aria trionfante. Il sai bene, va benissimo e Silas ora sa a puntino che cosa deve fare, aggiunse Daisy, saltando dalla gioia in vista di un indicibile successo. Mi piglia un accidente se ho mai visto una cosa più ingegnosa, specialmente quelle bestiole. E Silas, che era parte del segreto, se ne andò ridendo come un ragazzo. Eccoli che vengono. Sento Emil che urla: poltronacci di terraferma, che ve ne state sdraiati laggiù. Scappiamo dunque a vestirci, gridò Nan, e tutte e due volarono al piano di sopra. I ragazzi arrivarono in frotta, con certi appetiti che avrebbero fatto tremare il grosso tacchino se non fosse stato ormai al di là di ogni paura. Anche loro andarono a cambiarsi e per mezz'ora si lavarono, si spazzolarono e si fecero belli con un ardore che avrebbe consolato il cuore di ogni donna amante della pulizia. Quando suonò la campana, una squadra di fanciulli dai freschi volti e dai capelli lucidi, coi colletti di bucato e le giacche della festa, entrò nella stanza da pranzo, dove Mamma Jo, nel suo unico vestito di seta nera, con un ciuffo dei suoi prediletti crisantemi bianchi appuntato sul petto, sedeva a capotavola ed era splendida, dicevano i ragazzi, come sempre quando si metteva in gingheri. Daisy e Nan erano gaie come un'aiola fiorita nei loro vestiti nuovi da inverno, con cinture di vivaci colori e nastri nei capelli. Teddy era superbo nella sua blusa di lana scarlatta con gli stivalini abbottonati che lo tenevano assorto e distratto come i polsini certi sempliciotti. Il signore e la signora Baer, guardandosi attraverso la lunga tavola occupata ai lati da due serie di facce felici, pronunciarono un muto rendimento di grazie, perché un cuore diceva all'altro: «Il nostro lavoro è stato proficuo, siamo grati e proseguiamo». Il tintinnio dei coltelli e delle forchette non permise nei primi momenti una conversazione animata, mentre Marianne, con uno straordinario fiocco rosso nei capelli, svolazzava attorno, vivace, porgendo piatti e distribuendo cucchiaiate di salsa. Quasi tutti avevano contribuito al banchetto, quindi il pranzo era particolarmente interessante per i convitati, che ingannavano le pause facendo osservazioni sui loro prodotti. «Se queste patate non sono buone, allora io non so che cosa sia una patata buona», osservò Jack, servendosi per la quarta volta. «Nel ripieno del tacchino ci sono delle mie erbe, e per questo è così saporito», disse Nan, empiendosene la bocca con grande soddisfazione. «Le mie anatre sono straordinarie. Asia dice che non ne ha mai cotte di così grasse», aggiunse Tommy. «E le nostre carote, allora? Anche le nostre pastinache saranno buone quando le tireremo fuori», interruppe Dick, e Dolly mormorò la sua conferma dietro l'osso che stava spolpando. «Io ho aiutato a fare le torte con la mia zucca», gridò Robby, con una risata che frenò bruscamente nascondendo il viso nella sua ciotola. «Io ho raccolto un po' delle mele con cui ho fatto il sidro», disse Demi. «Io ho cercato i mirtilli per la salsa», gridò Nat. «Io ho procurato le noci», aggiunse Dan, e così via, di seguito, tutto attorno alla tavola. «Chi ha istituito il giorno del ringraziamento?» chiese Rob, che, essendo stato di recente innalzato all'onore della giacchetta e dei pantaloni, sentiva un nuovo e virile interesse per le istituzioni del suo paese. «Vediamo chi sa rispondere a questa domanda», disse il signor Baer, rivolgendosi a uno o due dei suoi più bravi alunni di storia. «Io», disse Demi, «sono stati i pellegrini, i padri puritani che, perseguitati in Inghilterra per le loro idee religiose e politiche, scapparono in America all'inizio del 1600. «Perché?» chiese Rob senza aspettare di sapere chi fossero i pellegrini. «Non me ne ricordo», dovette ammettere Demi. «Credo che sia perché una volta non morirono di fame, e così, quando facevano un buon raccolto, dicevano: dobbiamo ringraziare il Signore, e fissarono un giorno e lo chiamarono rendimento di grazie, Thanksgiving, il giorno del ringraziamento», disse Dan, cui piaceva la storia degli uomini valorosi che soffrivano nobilmente per la loro fede. «Bene, io credevo che tu ricordassi solo quanto riguarda la storia naturale», e il signor Baer batté gentilmente sulla tavola come per applaudire il suo discepolo. Dan ebbe l'aria contenta e mamma Jo disse a suo figlio: «Hai capito ora di che si tratta, Robby?» «No, che non ho capito. Io credevo che i pellegrini fossero una specie di grossi uccelli che vivono sulle rocce, come li ho visti nelle figure del libro di Demi. Vuol dire i pinguini. Oh, non è un'occhetta!» E Demi si appoggiò allo schienale della seggiola ridendo di gusto. «Invece di ridere di lui, insegnagli quello che sai in proposito», disse mamma Baer, consolando Rob dell'allegria generale provocata dal suo sbaglio con dell'altra salsa di mirtilli. «Beh, lo farò», e dopo una pausa destinata a raccogliere le sue idee, Demi fece il seguente racconto dei padri pellegrini, che avrebbe fatto sorridere persino quei gravi personaggi se avessero potuto sentirlo. «Vedi, Rob, c'era della gente in Inghilterra che non amava il re o qualcosa di simile, e quindi si imbarcarono e vennero a finire in questo paese. Questo era tutto pieno di indiani, di orsi, di bestie feroci, e vivevano nelle fortezze e passavano giorni tremendi». «Gli orsi?» chiese Rob molto interessato. «No, i pellegrini, perché gli indiani non li lasciavano in pace. Non avevano abbastanza da mangiare e andavano in chiesa coi fucili, e ne morivano tanti, e sbarcarono dalle navi su una rupe che si chiamava la Rupe di Plymouth, e la zia Jo l'ha vista e l'ha toccata. I pellegrini ammazzarono tutti gli indiani e diventarono ricchi e appiccarono le streghe. Erano molto buoni, e qualcuno dei nonni dei miei bisnonni venne qui sui bastimenti. Uno era il Mayflower e fecero la festa del ringraziamento e la facciamo ancora, e a me piace. Un altro po' di tacchino, per favore». Io credo che Demi diventerà uno storico. Racconta i fatti con tale ordine e chiarezza, disse lo zio Fritz ammiccando alla zia Jo mentre serviva al discendente dei Pellegrini la sua terza porzione di tacchino. Io pensavo che si dovesse mangiare a crepapelle per il giorno del ringraziamento, ma Franz dice che non si deve farlo neanche in questo giorno, osservò Staffi con l'aria di chi ha ricevuto cattive notizie. Franz ha ragione, quindi attento al coltello e alla forchetta e bada a moderarti, altrimenti non potrai aiutarci per la sorpresa fra poco. Starò attento, ma tutti mangiano un mucchio di roba e questo mi piace più che moderarmi, disse Staffi, che propendeva per l'opinione generale che la festa del ringraziamento dovesse essere celebrata arrivando a un pelo dall'apoplessia, ma cavandosela con una semplice indigestione o un mal di capo. Ora, miei cari pellegrini, divertitevi tranquillamente fino all'ora del tè, perché avrete abbastanza da eccitarvi stasera. Disse Mamma Jo quando si alzarono da tavola dopo una seduta più lunga del solito, chiusa con un brindisi generale fatto col sidro. Sarà meglio che li porti a fare una scarrozzata con questo bel tempo, così tu puoi riposarti, cara, se no stasera sarai finita, disse papà Baer. E appena indossati i paletò e presi i cappelli, i ragazzi si stiparono nel grande omnibus e se ne andarono, lasciando Mamma Jo a riposare e a sbrigare in pace vari lavoretti. Dopo un tè leggero e anticipato, tutti andarono a spazzolarsi i capelli e a lavarsi le mani e poi attesero impazienti l'arrivo degli ospiti, limitati alle persone di famiglia, perché quelle festicciole erano strettamente intime e nel caso presente non si permise al cordoglio di rattristare la riunione. Vennero tutti, il signore e la signora March con la zia Meg, così dolce e graziosa nonostante l'abito nero e la cuffietta vedovile che le incorniciava il volto sereno. Lo zio Teddy e la zia Amy con la principessina, simile più che mai a una piccola fata, vestita di azzurro con un gran mazzo di fiori di serra che distribuì ai ragazzi, infilandone uno a ogni occhiello, il che dette loro l'impressione di avere un'aria squisitamente elegante e festosa. C'era anche uno sconosciuto che lo zio Teddy presentò ai Baer, dicendo: «Ecco il signor Hyde, è venuto per avere notizie di Dan, e io mi sono permesso di condurlo qui stasera perché constatasse quanto il ragazzo sia migliorato». I Baer lo accolsero cordialmente per amore di Dan, lieti che egli non fosse stato dimenticato. Ma bastarono pochi minuti di conversazione perché fossero soddisfatti essi stessi di averlo conosciuto, tanto era geniale, semplice e interessante. Fu bello vedere il fanciullo illuminarsi in volto quando scorse il suo amico, e ancora più bella la sorpresa del signor Hyde e la sua soddisfazione per le maniere e l'aspetto di Dan così migliorati. Ma la cosa più bella fu vederli seduti in un angolo, dimentichi della differenza di età, di cultura e di posizione, parlare dell'argomento che li interessava tutti e due, l'uomo e il fanciullo, mentre confrontavano i loro appunti raccontandosi a vicenda la storia della loro vita estiva. Lo spettacolo deve incominciare presto, altrimenti c'è il pericolo che gli attori si addormentino, disse Mamma Jo appena scambiati i primi saluti. Entrarono tutti nell'aula scolastica e si sedettero davanti a un sipario formato con due grandi coperte da letto. I ragazzi erano già scomparsi, ma qualche risatina soffocata e qualche comica esclamazione dietro il sipario rivelava dove fossero. Il trattenimento cominciò con un animato saggio di ginnastica diretto da Franz. I sei ragazzi più grandi, in pantaloni turchini e camicia rossa, fecero una bella mostra di muscoli, maneggiando manubri, clave e pesi, al ritmo del pianoforte suonato da Mamma Jo dietro la scena. Dan spiegò tale energia in questo esercizio che corse il rischio di buttare a terra i suoi vicini, come tanti birilli, o di scaraventare i suoi sacchetti di fagioli fra gli spettatori, perché, eccitato dalla presenza del signor Hyde, ardeva dal desiderio di fare onore ai suoi maestri. Un bel ragazzo robusto. Se farò il mio viaggio nell'America del Sud fra un anno o due, sarò tentato di chiederle di prestarmelo, signor Baer, disse il signor Hyde, il cui interesse per Dan era stato accresciuto dalle informazioni avute su di lui. E noi glielo daremo ben volentieri, sebbene certi di sentire molto la mancanza del nostro giovane Ercole. Gli farebbe un gran bene, io sono certo che servirebbe fedelmente il suo amico. Dan sentì la domanda e la risposta, e il cuore, che gli balzò di gioia all'idea di viaggiare in un paese sconosciuto col signor Hyde, fu pieno di gratitudine per la gentile raccomandazione che compensava gli sforzi diretti a divenire quale i suoi amici lo desideravano. Dopo la ginnastica, Demi e Tommy recitarono il vecchio dialogo «Il denaro fa trottare la cavalla». Demi se la cavò benissimo, ma Tommy fu addirittura straordinario nella parte del vecchio fittavolo, perché imitò Silas in modo da far venire le convulsioni all'uditorio e fece ridere anche il buon Si, così forte che Ase dovette dargli dei colpi sulla schiena, mentre dal vestibolo si godevano lo spettacolo divertendosi un mondo. Poi fu la volta di Emil, che intanto aveva ripreso fiato e cantò una canzone marinara in costume, con una gran quantità di venti temporaleschi e terre sottovento e un coro indiavolato di «Orza, ragazzi, orza!» che fece rintronare tutta la stanza. Dopodiché Ned eseguì una curiosa danza cinese, saltellando come un grosso ranocchio sotto un cappello a pagoda. Siccome questa era l'unica esibizione pubblica che si facesse a Plumfield, ci furono anche alcuni saggi di cultura, aritmetica, ortografia e lettura. Jack sbalordì il pubblico con la sveltezza dei suoi calcoli sulla lavagna, Tommy vinse la gara di ortografia ed Amy lesse una favoletta francese così bene che lo zio Teddy ne rimase incantato. «Dove sono i piccoli?» chiesero tutti quando calò il sipario, senza che nessuno di essi fosse comparso. «Oh, questa è la sorpresa! Una sorpresa tanto bella che mi fate compassione perché non la sapete!» disse Demi, che era andato a prendersi il bacio della mamma e le stava vicino per spiegarle il mistero quando sarebbe stato svelato. La zia Jo aveva portato via Chioma d'Oro con grande stupore del papà, che riusciva quasi a superare il signor Baer nel fingere meraviglia, incertezza e sfrenata impazienza di sapere che cosa sarebbe successo. Finalmente, dopo un gran fruscio e molti colpi di martello e ordini ben udibili impartiti dal direttore di scena, il sipario si alzò al suono di una musica dolcissima e apparve Bess seduta su uno sgabello presso un focolare di cartapesta. Mai s'era vista una più deliziosa piccola Cenerentola, perché il vestitino grigio era tutto stracciato, le scarpette logore, il dolce volto così grazioso sotto i capelli luminosi e l'atteggiamento tanto abbattuto da provocare lacrime anziché sorrisi negli occhi che guardavano con tenerezza la piccola attrice. Ella stette immobile finché una voce mormorò «Su!». Allora emise un piccolo sbuffo dicendo «Oh, Tomme volei andare al ballo anch'io», con tanta naturalezza che il suo babbo applaudì freneticamente e la mamma si lasciò sfuggire «un tesoruccio mio». Queste inopportune manifestazioni di sentimento fecero quasi perdere la bussola a Cenerentola, che scuotendo la testa disse, rivolta ai genitori, «Non dovete parlare con me». Appena ristabilito il silenzio, si sentirono tre colpi alla parete. Cenerentola prese un'aria spaventata, ma prima che potesse ricordarsi di dire «Che succede?», il fondo del caminetto di carta si aprì come una porta e, non senza difficoltà, la fata madrina vi passò attraverso col suo cappello a cono. Era Nan, con un mantello rosso, una cuffia e una bacchetta magica, che agitò dicendo in tono deciso «Tu andrai al ballo, mia cara!». «Ora tira fuori il mio bel vestitino», rispose Cenerentola cercando di strapparsi di dosso il grembiule grigio. «No, no, prima devi dire come posso andarci con questi stracci», suggerì la madrina con la sua voce naturale. «Oh, è velo», e la principessina ripeté la frase per niente turbata dalla sua dimenticanza. «Io trasformo i tuoi stracci in uno splendido abito perché tu sei buona», disse la madrina, riprendendo l'accento della recitazione, e sbottonato con gesto deciso il grembiule scuro, fece apparire una visione meravigliosa. La piccola principessa era realmente abbastanza graziosa per far perdere la testa a tutti i principini della terra, perché la sua mamma l'aveva vestita come una minuscola dama di corte, con uno strascico di seta rosa e la sottoveste di raso e mazzolini sparsi qua e là che facevano un bellissimo effetto. La madrina le pose in capo una corona da cui pendevano piume rose e bianche e le dette un paio di scarpette di carta argentata, che ella si infilò, alzandosi poi in piedi e sollevando le sottane per mostrarle agli spettatori, mentre diceva tutta orgogliosa: «Non sono glaziose tutte di vetro?» E ne era così entusiasta che fu difficile ricondurla a rappresentare la sua parte e farle dire: «Ma io non ho callossa, Madlina!» «Eccola!» E Nan agitò la sua bacchetta con tale energia che per poco non fece cadere la corona dalla testa della principessina. E allora apparve il gran trionfo della serata. Prima si vide una corda agitarsi sul pavimento e tendersi per effetto di uno strattone, mentre si sentiva la voce di Emil che diceva «Issa oh!» e il vocione di Silas che rispondeva «Forza, forza, forza!» Seguì uno scoppio di risa, perché comparvero quattro grossi topi grigi piuttosto mal sicuri sulle gambe e con certe code curiose, ma con bellissime teste dove le perline nere brillavano come occhi veri. Essi trascinavano, o dovevano avere l'aria di trascinare, un cocchio magnifico fatto con la metà della gigantesca zucca montata sulle ruote del carrello di Teddy, dipinte di giallo per accompagnare la gaia carrozza. Inerpicato a cassetta sedeva un grazioso piccolo cocchiere con una parrucca di bambagia bianca, il cappello a tricorno, calzoni scarlatti e giubba gallonata, che faceva schioccare una lunga frusta tirando le redini con tale energia che i grigi corsieri si impennarono fieramente. Era Teddy che sorrideva agli spettatori con molta gravità, meritandosi una salva di applausi. «Se potessi trovare un cocchiere così dignitoso», disse lo zio Lori, «lo prenderai subito al mio servizio». Il cocchio si fermò, la madrina vi fece salire la principessa ed ella fu portata via in gran pompa, mentre mandava baci al pubblico sulla punta delle dita e lo strascico rosa spazzava il suolo dietro di lei, perché per quanto elegante fosse la carrozza, mi duole dover dire che Sua Altezza vi stava un po' stretta. La scena successiva fu il ballo, e qui Nan e Daisy apparvero brillanti come pavoni, tutte cariche di fronzoli. Nan rappresentava molto bene la parte della sorella orgogliosa e schiacciò molte dame immaginarie, incedendo maestosamente per la sala del palazzo. Il principe, solitario nella sua gloria sopra un trono alquanto instabile, si guardava attorno di sotto un'imponente corona, mentre giocherellava con la spada e si ammirava le rosette delle scarpe. Quando arrivò a Cenerentola, egli balzò in piedi ed esclamò con più ardore che eleganza: «Povero me, e quella chi è?» E immediatamente invitò la dama a ballare, mentre le sorelle si rabuiavano in viso, storcendo il naso in un angolo. La danza solenne, eseguita dalla piccola coppia, fu molto graziosa, perché i visetti infantili erano così gravi, i costumi così vivaci, i passi così originali, che essi parevano due squisite figurine su un ventaglio alla Watteau. Lo strascico impicciava assai la principessa e il principe Rob minacciò più di una volta di inciampare nella spada. Ma essi superarono questi ostacoli egregiamente e finirono la danza con molta grazia e molta disinvoltura, dato che nessuno dei due sapeva troppo che cosa l'altro stesse facendo. «Lascia cadere la scarpetta!» mormorò la voce della signora Jo mentre la damina stava per rimettersi a sedere. «Oh, me ne ero scoldata!» E toltasi una delle scarpette d'argento, Cenerentola la piantò nel bel mezzo della scena, dicendo a Rob: «Provati un po' ad acchiapparmi!» E scappò via, mentre il principe, raccolta la minuscola scarpa, ubbidiva correndole dietro. La terza scena, come tutti sanno, è quella dell'araldo che va a provare la scarpina. Teddy, sempre vestito da cocchiere, entrò suonando melodiosamente una trombetta di latta e le superbe sorelle tentarono una dopo l'altra di infilarsi la scarpa. Nan insisteva e fingeva di tagliarsi un dito del piede con un trinciante e compì l'operazione con tanta evidenza che l'araldo ne fu atterrito e la scongiurò: «Per carità, fa attenzione!» Poi fu chiamata Cenerentola, che giunse col grembiule infilato a mezzo, mise il piede nella scarpina e annunziò tutta soddisfatta: «Io sono la principessa!» Daisy pianse e chiese perdono, ma Nan, che aveva un gusto speciale per la tragedia, abbellì la storia cadendo svenuta sul pavimento, dove rimase a godersi comodamente il resto dello spettacolo, il quale non fu lungo perché il principe Arrivò di corsa, si buttò ai ginocchi di Chiomadoro e le baciò la mano con grande ardore, mentre l'araldo mandava uno squillo di tromba ad assordare il pubblico. Il sipario non ebbe il tempo di calare, perché la principessa si precipitò dal palcoscenico verso il suo babbo gridando: «Non ho fatto bene!» mentre il principe e l'araldo eseguivano una gara di scherma con la trombetta di latte e la spada di legno. «Bellissimo!» dissero tutti, e quando gli entusiasmi si furono un po' calmati, Nat venne fuori col suo violino in mano. «Sh-sh-sh-sh-sh!» si sentì da ogni parte, e silenzio fu subito fatto, perché c'era qualcosa nel contegno timido e negli occhi supplici del fanciullo che incatenò l'attenzione. I Baer credevano che avrebbe suonato qualcuna delle vecchie arie che conosceva così bene, ma con loro grande sorpresa udirono una nuova bellissima melodia, suonata così soavemente e dolcemente che a stento potevano persuadersi che fosse Nat a eseguirla. Era una di quelle canzoni senza parole, che giungono al cuore, esprimendo ogni più intima speranza, ogni trepida gioia, e calmano e rallegrano quelli che ne ascoltano la semplice melodia. La zia Meg aveva appoggiata la testa sulla spalla di Demi, la nonna si asciugava gli occhi, mentre Joe, guardando il signor Lori, gli mormorava con voce soffocata: «L'hai composta tu? Ho voluto che il tuo ragazzo ti facesse onore e ti ringraziasse come poteva», rispose Lori piegandosi verso di lei. Nat si inchinò e fece per ritirarsi, ma fu richiamato da molte mani e dovette esibirsi di nuovo. Raggiante in volto, che era un piacere vederlo, suonò le vecchie allegre ariette che fanno venire la voglia di ballare e rendono impossibile star fermi. «Sgombrate il pavimento!» gridò Amy. E in un attimo le sedie furono spinte contro il muro, le persone anziane messe al riparo negli angoli e i piccoli raccolti sul palcoscenico. «Mostratevi educati!» ordinò ancora Emil. E i ragazzi si piantarono davanti alle dame, vecchie e giovani, con amabili inviti a slanciarsi nei vortici della danza, come diceva il caro Dick Swiveller. I piccoli cavalieri vennero quasi alle mani per la principessa, ma ella scelse Dick da quella gentile damina che era e gli concesse l'onore di accompagnarla, tutto fiero, al suo posto. A mamma Jo non fu permesso di declinare l'invito. E la zia Amy colmò Dan di una gioia indicibile, rifiutando Franz per ballare con lui. Naturalmente, una coppia era formata da Nan e Tommy e un'altra da Nat e Daisy, mentre lo zio Teddy andò a prendere Asia, che si struggeva di ballare una giga e fu molto lieta dell'onore fattole. Silas e Marianne ballarono per conto loro nell'ingresso, e per una mezz'ora a Plainfield regnò la più schietta allegria. La festa si chiuse con una passeggiata trionfale di tutti i ragazzi, preceduti dal cocchio di zucca con la principessina e il cocchiere dentro e i topi davanti che si agitavano freneticamente. Mentre i giovani si godevano quel lieto finale, gli anziani sedevano nel salotto osservandoli e parlando di quel piccolo mondo con l'interesse di genitori e di amici. «A che stai pensando tutta sola, con un viso così felice, sorella Jo?» chiese Lori, sedendosi accanto a lei sul divano. «Al mio lavoro dell'estate, Teddy, e mi diverto a immaginare l'avvenire dei miei ragazzi», rispose sorridendo e facendogli posto. «Penso che debbano diventare tutti poeti, pittori, uomini politici, famosi soldati o almeno principi della finanza». «No, io non ho più le stesse aspirazioni di una volta, sai? E mi contenterò che siano persone oneste. Ma confesso che mi aspetto un po' di gloria e una bella carriera per alcuni di loro. Demi non è un fanciullo comune, io credo che eccellerà in qualcosa di buono e di grande, nel senso migliore della parola. Gli altri riusciranno bene, io spero, specie gli ultimi due, perché dopo aver sentito Nat stasera mi sono convinta che ha del genio. È troppo presto per dirlo, ma certo il talento non gli manca e non c'è dubbio che presto sarà in grado di guadagnarsi il pane col lavoro che ama. Plasmalo ancora per un anno o due e poi te lo riprenderò e lo lancerò per bene. È una così bella prospettiva per il povero Nat, che è arrivato qui 6 mesi fa abbandonato e derelitto. Quanto a Dan, vedo chiaro il suo avvenire. Il signor Haydn ne avrà presto bisogno e io intendo dargli un bravo e fedele piccolo aiutante. Dan è capace di servire bene se riceve in cambio affetto e fiducia, e ha abbastanza energia per farsi il suo avvenire a modo suo. Sì, Sono davvero molto felice del successo che abbiamo ottenuto con questi ragazzi, uno così debole e l'altro così violento e tutti e due tanto migliorati ora e tanto promettenti. Di che arti magiche ti sei servita, Joe? Oh, mi sono limitata ad amarli e a mostrar loro il mio affetto. Fritz ha fatto il resto. Anima cara. Si direbbe che limitarsi ad amare sia stato a volte un lavoro assai difficile, disse Lori, accarezzandole le guance affilate, con uno sguardo di ammirazione più tenera di quanta le avesse dimostrata quando era fanciulla. Ah, oh, io sono ormai una vecchietta sfiorita, ma son tanto contenta, quindi non mi compatire, Teddy, e lasciò errare lo sguardo per la stanza con occhi pieni di sincera letizia. Sì, i tuoi progetti sembrano riuscire sempre meglio di anno in anno, convenne lui, con un energico cenno di approvazione verso l'allegra scena che si svolgeva dinanzi a loro. E come potrebbe essere altrimenti, quando tutti mi aiutate tanto? Disse mamma Jo, guardando con gratitudine il suo generoso protettore. Ma sei il miglior divertimento della famiglia, questa vostra scuola coi suoi successi. Così diversa dal tuo avvenire quale lo avevamo sognato, eppure, dopo tutto, così adatta per te. Fu una vera ispirazione, Joe, disse Lori, sfuggendo al solito ai suoi ringraziamenti. Ci avete però riso su da principio, E ancora mi prendete in giro spesso e volentieri per le mie aspirazioni. Non avevate predetto che mettere insieme maschi e femmine si sarebbe risolto in un completo insuccesso? Guarda ora come è riuscita bene la prova, disse accennando al gruppo felice dei bambini e delle bambine che ballavano, cantavano, chiacchieravano insieme, dimostrando il migliore e più amichevole accordo. Lo ammetto, e quando la mia chioma d'oro avrà l'età adatta te la manderò, che posso dire? Sarò così fiera di vedermi affidato il vostro piccolo tesoro. Ma davvero, sai, Teddy, queste bambine hanno esercitato un'ottima influenza. So che riderai di me, ma poco male, ci sono avvezza. Quindi ti dirò che una delle mie favorite fantasie è di considerare la mia famiglia come un piccolo mondo, di osservare i progressi dei miei ometti e ultimamente di vedere il buon influsso esercitato su di loro dalle mie piccole donne. Daisy è l'elemento domestico, ed essi sentono tutto il fascino del suo contegno di donnina savia. Nan è irrequieta, energica, risoluta, ne ammirano il coraggio e le offrono le occasioni di esercitare la sua volontà, vedendo che oltre alla forza possiede la comprensione e il potere di fare molto nel loro piccolo mondo. La vostra Bess è la damina piena di naturale signorilità, di grazia e di bellezza. Ella li raffina inconsciamente e occupa il suo posto come un'amabile donnina, valendosi della sua gentile influenza per sollevarli e mantenerli al di sopra delle volgari, dure realtà della vita, facendone dei gentiluomini nel senso migliore di questa bella parola antica. Non sono sempre le dame che riescono meglio in questo gioco. Qualche volta è una brava donna forte che scuote il ragazzo e ne fa un uomo, disse Lori, inchinandosi davanti a lei con un sorriso significativo. No, io credo che il ragazzo cui tu alludi debba assai più alla donna graziata alla quale si è unito che non alla selvaggia Nan della sua giovinezza. O meglio ancora, la saggia donna materna che vegliò su di lui, come Daisy fa con Demi, ha il merito maggiore di averlo reso quello che ora è. E Joe si volse verso sua madre, seduta un po' in disparte con Meg, così bella nella dolce dignità della vecchiaia, che Lori le lanciò uno sguardo di rispetto e di amore filiale, mentre rispondeva, con la massima serietà, «Tutte e tre fecero molto per lui, e io capisco benissimo come queste fanciullette possano giovare ai tuoi ragazzi. Non più di quanto i ragazzi giovino a loro, è una cosa reciproca, ti assicuro». Nat fa molto per Daisy con la sua musica. Dan può dirigere Nan meglio di tutti noi. E Demi ammaestra la vostra chioma d'oro così facilmente e così bene che Fritz li chiama Roger Asham e Jane Grey. Povera me, se gli uomini e le donne avessero un po' più di fiducia, di comprensione e si aiutassero a vicenda, come fanno i miei ragazzi, che posto meraviglioso sarebbe il mondo, disse la signora Jo, con gli occhi perduti nel vuoto, come se vedesse un nuovo e delizioso stato della società in cui la gente vivrebbe felice e innocente come il suo piccolo gregge a Plumfield. Tu fai del tuo meglio per affrettarne l'avvento, mia cara. Continua a credere in questo tempo felice, a lavorare per esso e a dimostrarne la possibilità con l'ottimo risultato del tuo modesto esperimento, disse il signor March, fermandosi davanti a lei per per rivolgerle una parola incoraggiante, perché l'ottimo uomo non aveva mai perso la sua fede negli uomini e nelle donne e sperava ancora di vedere la pace, la buona volontà e la felicità regnare sulla terra. Ah, la mia ambizione non giunge a tanto, caro babbo. Il mio solo desiderio è di dare a questi figlioli una casa dove possano imparare le poche semplici cose che servono a rendere loro la vita meno dura quando se ne andranno a sostenere le loro lotte nel mondo. Onestà, coraggio, operosità, fede in Dio, nel loro prossimo e in loro stessi. Questo è quanto tento di ottenere. Ed è tutto. Da loro questi aiuti e poi lasciali andare a farsi la loro vita di uomini e di donne. E sia che riescano, sia che falliscano, credo che essi ricorderanno e benediranno i vostri sforzi, cari miei buoni figlioli. Il professore s'era unito a loro e il signor March, mentre parlava, tese la mano ad ambedue. Poi li lasciò con uno sguardo che era una benedizione. Joe e suo marito rimasero un attimo insieme a parlare tranquillamente, certi che il loro lavoro estivo era stato svolto bene, se il babbo l'aveva provato. Poi il signor Lori sgusciò nel vestibolo, disse qualcosa ai ragazzi e subito tutti si precipitarono nella stanza e prendendosi per mano saltarono attorno a papà e mamma Baer cantando. Con le ultime parole della canzone il circolo si restrinse finché il buon professore e sua moglie rimasero imprigionati da molte braccia e seminascosti dal mazzo dei giovani volti sorridenti che li circondavano, dimostrando che una pianta aveva messo radici ed era fiorita magnificamente nei giardinetti, perché l'amore è un fiore che cresce in qualunque terreno e opera i suoi dolci miracoli sfidando il gelo autunnale e la neve dell'inverno, fiorendo, bello e fragrante, tutto l'anno e rendendo felice chi lo coltiva e chi lo coglie. Fine.